del passato che ritornano, immagini confuse che mi assalgono. Se solo riuscissi a rimuovere cattivi ricordi e idee sbagliate, se solo potessi essere migliore, se solo riuscissi a non tenere a mente i giudizi sbagliati della gente, mi sentirei meglio, meglio sicuramente, se solo mi impegnassi a risolvere le mie difetti. Le mie difetti. Le mie difetti. Siamo come naufraghi in un tempo incerto, frustrati anche solo per un difetto. Se solo riuscissi a rimuovere abitudini senza senso, se solo potessi essere diverso, solo riuscissi a non tenere a mente errori passati e guardare al presente, mi sentirei meglio, meglio sicuramente, se solo mi impegnassi a risolvere le mie difetti. Le mie difetti. Le mie difetti. Le mie difetti. Let me at